24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti, saluto anche il nostro Peter Bescapè, il nostro alpino in regia. Siamo in diretta fino alle 9 come al solito. Oggi parleremo di che cosa? Torneremo a ospitare l'onorevole Pini della Lega, che sulla questione della responsabilità civile dei magistrati insiste, una norma che secondo il sindacato dei magistrati va stralciata. Anche il governo ha dei dubbi, ma invece dal centrodestra e dall'onorevole Pini della Lega si insiste. Poi di cosa parleremo? Beh, c'è questa proposta che peraltro verrà molto probabilmente cassata, ma chi lo sa, di mettere un bollino nero, una sorta di blacklist per i negozianti, i commercianti che non rilasciano lo scontrino. Che ne pensate? È una proposta che vi vede favorevoli, cari ascoltatori, l'idea di sapere che quel negozio o quell'esercizio commerciale non rilascia lo scontrino, non ha rilasciato lo scontrino, è stato pizzicato e dunque è in una lista nera. Ne parleremo alle 8:30. Ora andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Questo mercoledì 21 marzo i titoli sono praticamente tutti declinati alla questione della riforma del mercato del lavoro. Il Sole 24 Ore, articolo 18, addio per tutti, no CGIL. Corriere della Sera, il nuovo articolo 18 varrà per tutti. Repubblica, cambia l'articolo 18, la CGIL non ci sta. La Stampa, articolo 18, questione chiusa, e sono le parole del Premier Monti. Libero, impantanati sull'articolo 18, ammazza Italia. L'Unità, lo strappo di Monti, il Manifesto, parliamone, e c'è una foto della manifestazione della CGIL. Il Giornale, abolito l'articolo 18, quasi. Il Messaggero, lavoro, cambia l'articolo 18. Come vedete non c'è grande varietà, ma è davvero la notizia del giorno. Il lavoro cambia, nuovo articolo 18 anche per Avvenire. L'unica apertura di un giornale un po' diversa è il Fatto Quotidiano, Milano-Napoli-Bari, favori in corso sulla vicenda delle inchieste che coinvolgono vari partiti. Intanto io da cosa voglio partire? Da una notizia che viene pubblicata da Libero in prima pagina, la firma è Fosca Bincker, vale a dire uno degli nei modi in cui si firma Franco Bechis, il vice direttore. I Berluschini spendono 5 milioni a testa. Fosca Bincker fa i calcoli e fa le pulci ai conti dei figli di Berlusconi. E inizia così. Il titolo è di un'ironia straordinaria all'interno, a pagina 6. Con meno di 5 milioni a testa, i Berluschini non tirano avanti. 5 milioni all'anno non è che sono poi granché, non si tira avanti. Un anno da dimenticare anche per i tre figli minori di Silvio Berlusconi. La crisi si è fatta sentire e il 2011 è stato il peggiore anno della sia pur breve vita imprenditoriale di Eleonora, Barbara e Luigi. Dunque sono i figli del secondo matrimonio, nati dal matrimonio con Veronica Lario. Secondo il bilancio della holding italiana, 14ª, depositato ieri al registro della Camera di Commercio di Milano, i tre azionisti hanno visto crollare nell'ultimo anno i loro guadagni da 42 milioni ad appena 2 milioni 96 mila euro. C'è chi sta peggio, naturalmente, ma è la prima volta nella storia della holding di famiglia che gli utili prodotti nell'anno non sono sufficienti ai bisogni degli azionisti. Negli ultimi anni non solo avevano avuto dividendi più che decorosi, ma avevano messo addirittura fieno in cascina in società. 50 milioni di euro nel 2008, 15 nel 2009, 12 nel 2010. Stavolta Eleonora, Barbara e Luigi hanno dovuto prendere un po' di quel fieno perché i 2 milioni non erano sufficienti a pagare le loro spese nel 2012. Insomma, con meno di 5 milioni a testa i Berluschini non tirano avanti. Berluschini, la società dei tre figli minori incassa 2 milioni, ma le spese sono di più. E dunque, ecco qui tutti i conti della società holding italiana 14ª che sono spulciati da Libero. Tra l'altro voglio rimanere su Silvio Berlusconi perché Oggi il quotidiano nazionale invece dà un'altra notizia che riguarda Berlusconi padre. Il cavaliere ha comprato una casa che non è quella di Lampedusa, come si evince dalla dichiarazione dei redditi, ma il cavaliere sbarca sul lago di Como e compra la villa dell'amico dell'Utri. Ci provava da 5 anni, secondo Marco Palumbo, da Torno, in provincia di Como, e Silvio Berlusconi è riuscito alla fine ad acquistare la villa sul lago di Como che tanto sognava. Dopo il no secco e fragoroso nel 2007 dell'imprenditore Giorgio Fasana per Villa Belinzaghi, una villa abitata anche dal calciatore Clarence Seedorf, il cavaliere avrebbe puntato deciso su Villa Comalcione, a Torno, di proprietà dell'amico e senatore Marcello Dell'Utri. 30 vani, 3.000 metri di parco, campo da tennis, darsena, raggiungibile principalmente via lago, anche se il parco che la circonda offre un'ampia garanzia di privacy. Questo sarebbe l'ultimo acquisto immobiliare di Silvio Berlusconi. A proposito di Como e provincia di Como, c'è un'interessante notizia sulla stampa. La racconta Fabio Poletti a pagina 24. A Como c'è la guerra ai piccioni, è un grave problema per l'assessore alla provincia di Como, Mario Colombo, ideatore di che cosa? Un corso per cecchini di piccioni, alpino, che dici? Guerra ai piccioni, 80 cecchini pronti a sparare, l'assessore Colombo della Lega, troppi danni dai piccioni, tra l'altro vabbè, il suo nome è Colombo e fa la guerra ai piccioni, alè, e via con le ironie e i doppi sensi, assessore alla cultura e alla caccia, ah ecco perché assessore alla cultura e alla caccia della provincia di Como, licenza di uccidere i piccioni dopo aver scoperto che su quel ramo del lago D proliferano gli odiosi pennuti, Mario Colombo si è inventato il killeraggio legalizzato. E allora, con apposito corso, ha diplomato 80 cacciatori con tanto di doppietta e patentino che potranno essere chiamati da agricoltori e allevatori a fare piazza pulita. Se li uccidono è meglio. Questa è la dichiarazione dell'assessore provinciale. Ma va bene pure se li spaventano e li dissuadono a tornare nei terreni. Assessore con cattedra all'Università di Milano di apidologia e lotta integrata biologica, fautore della tolleranza zero contro i piccioni che vorrebbe cacciare vivi o morti. Abbiamo provato con i bocconi avvelenati, abbiamo provato con i cannoni dissuasori. Questa è l'ultima razio, dice così l'assessore provinciale, Mario Colombo, l'ultima razio è questa. 80 cecchini, gli ambientalisti subito si sono mobilitati dicendo ma no, il problema è il periodo della riproduzione, ci sono i piccoli da nutrire. E poi tutte quelle persone armate che non sono pubblici ufficiali, che vanno in giro per le campagne, vanno in giro per piccioni, per sparare ai piccioni, grave problema. Insomma, a Como questa è un qualcosa che sta creando problemi. Poi uno dice che le province non servono. È la pubblicità. Le 7.36 in punto in questo istante, allora come detto tutti i giornali aprono e dedicano ampio spazio alla riforma del mercato del lavoro. Che cosa è successo? Ieri il premier Mario Monti ha fatto una conferenza stampa con il ministro Saffornero e con i sindacati e le parti sociali. Beh, Mario Monti in pratica ha detto per il governo la questione dell'articolo 18 è chiusa. E lo ha fatto con una nettezza non indifferente. Il ministro poi Elsa Fornero ha illustrato quali sono le linee della riforma, che sono queste in estrema sintesi, le leggo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. In caso di licenziamento per ragioni economiche, al lavoratore spetterà un indennizzo che può arrivare fino a 27 mensilità. Se le ragioni sono disciplinari, toccherà al giudice decidere tra il reintegro o l'indennizzo, il famoso modello tedesco. mentre il reintegro resta per i licenziamenti discriminatori. Dunque, i licenziamenti discriminatori rimangono tutelati appunto con il reintegro. Questa riforma riguarda sia i contratti in essere sia quelli futuri. E Monti ha anche detto: a nessuno c'è il potere, per nessuno il potere di veto, e ora le imprese investano perché non ci sono più alibi. E beh, una decisione che secondo molti ha spiazzato, se non altro per la nettezza. Ieri si parlava di trattativa in salita. Di certo la CGIL ha detto: noi a queste condizioni non ci stiamo. C'è stato il sì di Confindustria, c'è stato il sì della CISL, c'è stato il sì della UIL. La CGIL invece promette mobilitazione. Tutti i dettagli poi di come cambia l'articolo 18, come si vorrebbe cambiare l'articolo 18, li troviamo sul Sole 24 Ore a pagina 5, sono spiegati nel dettaglio da Giorgio Pogliotti. Io vi ho dato, diciamo, quelle che sono le decisioni generali, mentre Enrico Marro sul Corriere della Sera, ve lo segnalo a pagina 3, perché racconta nel dettaglio quello che sarebbe stato il faccia a faccia, a tratti anche molto duro, tra il premier Mario Monti e il leader della CGIL Susanna Camusso. Il premier Camusso, l'ultimo duello, la leader, non avete voluto mediare. Questo è il titolo dell'articolo di Enrico Marro. L'epilogo della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro è un gelido faccia a faccia tra la leader CGIL Camusso e il presidente del Consiglio Monti. Sono quasi le 8 di sera, nella sala verde di Palazzo Chigi l'incontro con le associazioni imprenditoriali e sindacali va avanti ormai da 4 ore. Monti ha fretta di chiudere, non ha mai amato i riti della concertazione e fin dall'inizio della riunione ha detto chiaramente che vuole il giudizio di tutte le parti sociali su tutta la riforma, compreso l'articolo 18. E a quel punto, prevedendo il no della CGIL, il ministro del lavoro Fornero voleva sfumare sull'articolo 18. No, è inutile, lo sappiamo tutti che questo è il tema. Così Mario Monti, protagonista assoluto del vertice. E allora sono tutti sì, uno dopo l'altro, Confindustria, Angeletti, della UIL, la CISL, e poi arriva la Camusso che si sente di nuovo isolata sul no. Dice la Camusso: sull'articolo 18 non è stata tentata una mediazione, la proposta è rimasta tale quale a quella che il governo aveva presentato all'inizio. Si tratta del terzo provvedimento dopo le pensioni, le liberalizzazioni che penalizza i lavoratori, le fasce sociali più deboli. Monti non si scompone, dice: apprezzo la franchezza del suo intervento, prendo atto del giudizio critico, ma le rispondo che questo governo ha grande riguardo verso i deboli e i lavoratori. È vero che abbiamo guardato ai mercati perché non potevamo farne a meno, ma questo è il modo giusto per aiutare i più deboli, perché se il paese fosse fallito sarebbero quelli che ci avrebbero rimesso di più. Insomma, un tono pacato ma gelido per dire, come sancisce il Corriere della Sera, la concertazione da ieri con Mario Monti non esiste più. Mario Monti dunque che va avanti, Camusso viene data dal Manifesto furiosa. Ora mobilitazione. E insomma, su questo il Manifesto è duro, appunto il titolo di prima pagina è Parliamone, e c'è anche un editoriale di Loris Campetti molto molto critico in prima pagina. Il governo dei professori, scrive Campetti, non cerca il confronto con i sindacati, ne vuole lo scalpo da consegnare ai santuari della finanza. Monti vuole convincerli della sua fedeltà agli ordini di scuderia, il crollo dello spread al suo prezzo, e qualcuno deve pur pagarlo. Questa volta, guarda caso, tocca ai giovani, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Posizione ben diversa da altre organizzazioni sindacali. I partiti invece come reagiscono? Beh, tutti sono unanimi nella lettura dei quotidiani, nell'analisi di quello che è successo ieri, che le più gravi difficoltà le avrà il Partito Democratico. Il gelo di Bersani sull'esecutivo, i patti non erano questi, avrebbe detto il segretario PD, che poi nella formulazione ufficiale dice: su questa riforma dovrà pronunciarsi il Parlamento. Dall'altra parte il Popolo della Libertà dice: ora dobbiamo difendere Napolitano. Perché? Perché Napolitano è il capo dello Stato. Anche ieri ha detto: un accordo non è più eludibile su questa importante settore dell'Italia, del paese, per lo sviluppo del paese. E il Partito Democratico perché è diviso? Ma perché già si vede, già sull'articolo 18 su questo tema c'erano varie anime all'interno del Partito Democratico. Basta leggere per esempio l'intervista a Stefano Fassina fatta da Repubblica a pagina 4. Stefano Fassina è responsabile economico, responsabile del lavoro del partito. Ebbene, dice Fassina, non è un accordo questo, non mi pare ci sia alcun accordo. Quando Monti in conferenza stampa ha parlato di accordo di tutti tranne che della CGIL, mi è parso di risentire Sacconi, cioè il ministro del welfare del governo Berlusconi. Anche Angeletti sostiene siano necessarie modifiche, neppure Bonanni della CISL era entusiasta. Il governo ha scelto di registrare la posizione delle parti sociali che sono differenziate. Noi PD insistiamo affinché nel tempo che rimane a disposizione prima di inviare i testi in Parlamento si faccia un ulteriore sforzo perché si cambi. Mentre all'interno del PD Fioroni, che è responsabile del welfare del partito, parla di riforma seria e da appoggiare. Ecco, già questo fa capire che all'interno del PD ci sono varie anime. Se volete, su questo c'è anche qualche polemica di colore. Una, per esempio, ormai Twitter spopola. Siamo anche noi su Twitter, eh? Etalino Milan, questo è il mio account, Et24Mattino, è l'account della trasmissione. Peter non me lo dice, adesso me lo dirà durante il traffico e lo dirò, giuro, appena rientrato dal traffico. Ma insomma, Twitter spopola e sapete qual è l'unica foto ufficiale del vertice di ore e ore e ore? La postata, la CGIL, si vedono, mi pare di riconoscere, di spalle, così devo intuire dalle spalle, Emma Marcegaglia a sinistra e Susanna Camusso a destra. E in mezzo a loro, di fronte, si vede Mario Monti sullo sfondo e Corrado Passera. È l'unica foto postata di questo vertice ed è stata postata, fatta da, non so, un telefonino di qualcuno della delegazione della CGIL e messa su Twitter. Tanto che i fotografi ufficiali hanno inscenato una protesta anche giustificata. Hanno i fotografi ufficiali, quelli che seguono la politica, cioè, hanno messo tutte le loro macchine fotografiche per terra dicendo qua non si può lavorare, ormai non ci hanno fatto fare una foto, si lavora, no, facciamo fare la foto al delegato della CGIL che la posta su Twitter e invece noi siamo stati tenuti fuori, non possiamo neanche fare una foto. Vabbè, questo è l'aspetto di colore di questo vertice. La foto postata da CGIL la potete trovare un po' su tutti i giornali. Mentre che cosa? La politica si interroga su intanto le liberalizzazioni, oggi c'è la fiducia, e poi le inchieste, gli scandali e gli insulti. Formigoni ha perso la pazienza e ha dato al capogruppo dell'Italia dei Valori del pirla. Lei è un pirla. E poi ha detto anche: ma pirla non è un insulto. In su, si informi. Allora, se avete carta e penna, perché è complicatissimo, l'account dell'Alpino nostro, Peter Bescapè, è così: @Bescapè, senza l'accento però sulla E, Bescapè Peter, Peter Bescapè, Bescapè Peter. Un po' complicato, ma d'altronde quello è il cognome e il nome che si ritrova. E allora, questo è l'account del nostro Alpino su Twitter, che ora avrà decine di migliaia di fan che lo seguono. Le liberalizzazioni, la politica oggi segue, oggi ci sarà la fiducia con tanto di annessa polemica, perché c'è il decreto sulle liberalizzazioni. La Ragioneria Generale dello Stato ha detto non c'è la copertura su alcuni aspetti, bisogna verificarli, e il governo ha messo la fiducia. Anche il presidente della Camera Fini ha detto è una scelta insensibile. Dunque qualche polemica e qualche scricchiolio. Polemiche invece sono tra inchieste e anche nervi tesi. Ieri alla Regione Lombardia Formigoni si è lasciato prendere la mano, ha dato del pirla al capogruppo dell'Italia dei Valori, che ha detto si metta a verbale, chieda scusa a Formigoni. Formigoni ha ripreso la parola per dire si stupirà lei, l'avete sentito nel giornale radio, si stupirà a scoprire che pirla a Milano non è un insulto, ben due sentenze della magistratura stabiliscono questo, e quindi pirla, dare del pirla non è neanche reato, per cui insiste. Sta di fatto nervi tesi racconta pagina 14 del Corriere della Sera, Formigoni insulta il capogruppo IDV, le proteste in aula, dà del pirla all'avversario che ora dice ora si dimetta, mentre i nervi tesi per chiunque, anche per Nicole Minetti, consigliere regionale, che ieri al bar del Pirellone, irritata dai continui flash dei fotografi, si è girata e ha detto e basta riprendermi il sedere con le macchine fotografiche. E questo Nicole Minetti ieri in regione. Mentre un po' più a sud, nel Tacco d'Italia, a Bari, in Puglia, ci sono problemi invece sempre per Emiliano, che non è indagato, lo ripetiamo tutti i giorni, nell'inchiesta che ha portato all'arresto anche di alcuni costruttori, i De Gennaro, 3 milioni di fondi neri, titolo oggi il Corriere della Sera, ma certo ora arrivano le intercettazioni. In un'intercettazione, secondo il Messaggero, Massimo Martinelli, a pagina 11 c'è lo sfogo di un geologo che era stato chiamato per risolvere il problema di Cava di Maso, un problema per la costruzione nel quale c'erano appunto i De Gennaro, nel quale c'era un problema di una pozzanghera d'acqua alta 30 metri che praticamente non drenava più nel terreno. Questo geologo chiamato dal comune, il geologo ingegnere Vincenzo Cotecchia, in un'intercettazione dice: ma questo è stato voluto da questo benedetto comune, il quale c'ha un sindaco combinato. Non si capisce bene a che cosa alluda con questo sindaco combinato, ma certo, insomma, stanno arrivando anche le intercettazioni. E sta di fatto che Bersani e Vendola scaricano Emiliano, così titola Repubblica, almeno a pagina 16, pare che con questa situazione Emiliano si sia giocata la possibilità di essere il candidato del centrosinistra per la regione. Non sarà lui il candidato della regione Puglia. Dobbiamo dare uno sguardo all'estero, soprattutto a Tolosa. Io vi devo segnalare, come avete sentito anche nel giornale radio, che tutto ciò che magari leggerete sui giornali, sulle analisi, i neonazisti, eccetera, potrebbe essere superato dagli eventi in corso in questo momento a Tolosa, dove la polizia ha arrestato una persona, ma in realtà sta braccando, ha isolato all'interno di un edificio un'altra persona che sarebbe il sospettato autore della strage alla scuola ebraica. 3 bambini e un adulto uccisi a sangue freddo. Questa persona avrebbe già, in pratica, secondo le autorità francesi, ammesso, sarebbe una persona legata ad Al-Qaeda e che avrebbe detto ho voluto vendicare le uccisioni dei bambini palestinesi. Queste sono le notizie che arrivano in diretta dalle agenzie. Questa persona è braccata all'interno di un edificio con la polizia che lo sta ovviamente accerchiando. Però vi voglio segnalare su questo una bella intervista intensa a Eli Wiesel, pagina 19 del Corriere della Sera, scrittore sopravvissuto ad Auschwitz, Nobel per la pace nel 1986, che racconta lo stesso Corriere con la voce rotta dalla commozione, racconta in questa intervista: non esiste un perché di questa vicenda, dice ad Alessandra Farkas. Entrare nel tempio del sapere dove giovani vulnerabili e innocenti non fanno null'altro che studiare e apprendere soltanto per uccidere è la prova che un antisemita ancora oggi è disposto a oltrepassare i limiti dell'umanità. Si può forse chiamare uomo quello? Ha colpito proprio quel bersaglio perché da sempre i nemici del popolo ebraico prendono di mira scuole, sinagoghe. Nel Medioevo, così come durante l'occupazione nazista dell'Europa, i luoghi di culto e studio furono i primi a essere bersagliati e immancabilmente i primi a essere distrutti. Dopo la guerra, credevo di non dover mai più assistere al massacro di bambini ebrei uccisi soltanto in quanto ebrei. Mi sono sbagliato, qualcosa di terribilmente malvagio continua ad agitare gli animi di questo nostro mondo. Così Eli Wiesel sul Corriere della Sera. Vabbè, devo chiudere. C'è giustamente da celebrare il passaggio del turno in finale della Juventus. Bella partita ieri, 2-2 è finita la Juventus in finale di Coppa Italia. Juve del Piero più Vucinic, finale. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. E Ale di finale si riferisce ad Alessandro Del Piero, che ha fatto un fallo e un gol nel primo gol, e quindi è passata la Juventus. Poi la battuta di Antonio Conte era stata la migliore, la partita più importante dell'anno. Questa, devo dire, stavolta è una bella battuta. Touché di Antonio Conte. 24 24 mattino. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, le 8:23 minuti. Torniamo a parlare di un tema caro all'onorevole Gianluca Pini della Lega Nord. Onorevole, buongiorno. Caro, buongiorno. Non solo a lei, credo, caro, il tema. La responsabilità civile dei magistrati. Ieri il sindacato dei magistrati ha avuto un'audizione al Senato e ha detto: questa norma, che si sta ora tornando a discutere, va stralciata, va tolta. Che cos'è, una difesa di casta, secondo lei? Beh, sicuramente una difesa corporativa, ma mi lasci dire una cosa, non è che è un tema caro solamente a me, da quello che pare, ma è caro un po' a tutti i cittadini italiani, perché ritengono di difficile comprensione come di fatto errori giudiziari compiuti da magistrati o da giudici poi non arrivino quasi mai in qualche modo ad ottenere giustizia da parte dei cittadini che li hanno subiti. Ieri c'è stata questa audizione, si è letto dalle agenzie, dalle cronache dell'Associazione Nazionale Magistrati in Senato, proprio in virtù del dibattito che c'è sull'articolo che è scaturito dall'emendamento che porto la mia firma, approvato alla Camera. E noi abbiamo sempre detto, con l'Associazione Nazionale Magistrati, con il CSM, con tutti i soggetti coinvolti nell'esercizio della giustizia, che il confronto è sempre disponibile, aperto. Cioè, sì. Noi abbiamo messo un testo, cioè noi, io ho preparato, e poi la Camera ha votato a larghissima maggioranza un testo. Se qualcuno ci dimostra che quel principio di responsabilità è migliorabile, è possibile renderlo più efficace e applicabile in maniera più puntuale e migliore, noi siamo i primi se qualcuno ci mostra un testo alternativo, a dire va bene. Però sa anche quello il ministro... che non è accettabile che uno dica no, lo dovete togliere totalmente. Vabbè, dal questo testo, è il parere, sono stati... Sì, ma è un parere molto pericoloso, perché vuol dire che va contro la volontà del Parlamento e la volontà dei cittadini. Senta, su questo però anche il ministro Paola Severino, il ministro della giustizia, ha detto: non è vero che l'Europa ci chiede questo, e soprattutto in Europa non c'è questa responsabilità civile formulata così, e quindi che facciamo? Guardi, una premessa: io ritengo sempre molto difficile che si possa occupare di riforme della giustizia chi all'interno della giustizia esercita una professione, perché mi metto nei l'avvocato panni. L'avvocato Severino non può fare. Ma io la vedo molto difficile. Io faccio una considerazione al di là dell'avvocato Severino, in termini generali. Un avvocato che in questo momento svolge un ruolo, anche non dico di ministro, ma anche solo di parlamentare, magari con ruoli di responsabilità in materia di giustizia, che si mette contro un PM, che si mette contro l'Associazione Nazionale Magistrati, o perlomeno contro il loro modo di vedere, poi nel momento in cui torna a svolgere il proprio ruolo non so ecco quale il vero conflitto di interessi, ma... il vero conflitto di interessi sono tutti i parlamentari, cioè ci sono moltissimi parlamentari avvocati, come si fa allora? 163 mi sembra che sia, però allora... al di là di questa, che è una considerazione mia personale di opportunità, non è vero quello che dice la Severino, non è vero, cioè che non esiste una responsabilità dei magistrati in Europa, non è assolutamente vero. È vero che ad esempio in Inghilterra o in altri stati c'è un sistema di protezione quasi totale rispetto all'esercizio del svolgimento delle indagini e tutto il resto, ma c'è anche un meccanismo diverso di regolamentazione di leggi. Quello che chiede l'Europa è effettivamente una cosa diversa, o perlomeno sì, è la base del ragionamento che io ho fatto per produrre quell'emendamento. Cioè, diciamo, ma che lei ha tenuto l'asticella alta per ottenere un po' qualcosa di meno. Attenzione, io ho tenuto l'asticella alta non perché mi sono svegliato di traverso una mattina, ma perché mi sono ricordato di quello che era la volontà popolare di un referendum espresso ben 25 anni fa. Sì. E soprattutto mi sono ricordato che l'attuale normativa non funziona. Questo è il punto. Se in 25 anni solo quattro magistrati sono stati condannati per degli errori, contro 1.382 sentenze di condanna per mala giustizia da parte della Corte di Giustizia Europea, c'è qualcosa che non quindi torna. Voglio dire, è questo il punto, che una responsabilità, cioè la punibilità del giudice che sbaglia già c'è, però non viene applicata, almeno numericamente non viene applicata. È molto limitata, è messa in capo solo ed esclusivamente allo Stato, senza di fatto possibilità di rivalsa reale, perché teorica sì, ma reale no, nei confronti del magistrato e del giudice che sbaglia, e soprattutto è limitata al dolo o la colpa grave, ma non a quello che è il concetto espresso dall'Europa, e di questo la Severino dovrebbe informarsi, di manifesta violazione del diritto, cioè quando è palese che un giudice o un magistrato disattende quello che è una norma anche di carattere europeo. Ma lei vorrebbe anche questo, cioè un giudice che sbagliasse, in ipotesi dovrebbe pagare in solido anche economicamente, perché questo è un punto sul quale dice, ma chi fa mai il giudice? Distinguiamo bene, un giudice che sbaglia palesemente, cioè solo colpa grave rimangono, ma perché nonostante l'avvocato gli mostri una norma che è favorevole all'imputato, questo non la tenga in debita considerazione, perché quella si chiama manifesta violazione del diritto. Ma un giudice che sbaglia perché ha valutato in maniera difforme delle prove, non può essere chiamato a rispondere, cioè questo è un concetto molto chiaro, cioè uno può fare un conto, cioè, se non fa è un che errore. Chiunque viene condannato poi, come vuol far credere la NM, con quella norma può denunciare il giudice o il magistrato. Ma ci vuole una colpa grave o una manifesta violazione del diritto, altrimenti ci sono dei casi che sono comunque limitati e deve essere dimostrata, mettiamola così, un po' la malafede di chi ha compiuto l'errore. Comunque lei, insomma, perché... Pini, chiariamo, non ce l'ha con i magistrati, cioè non li vede una casta con la quale... Oddio, hanno molti privilegi, in un paese di caste. In un paese di caste ci sta anche quello. In un paese di caste, no, anche loro hanno la loro casta, secondo me. Hanno la loro casta. A quando la responsabilità civile dei politici? Indirettamente, voglio dire, noi ce l'abbiamo, perché contrariamente a questi signori noi ogni tot anni, e ogni tanto dovrebbero essere 5, ma è capitato anche che siano stati semplicemente solo 2, dobbiamo ripresentarci davanti agli elettori, quindi, che però non possono scegliere attualmente. Su questo sì, su questo è un dibattito che mi sembra che sia molto vivo all'interno del paese. Io ho una mia personale visione, cioè che l'attuale normativa, se corretta con un sistema di preferenze, possa ridare un po' di vivacità alla partecipazione democratica da parte dei cittadini, magari va corretto il discorso del premio di maggioranza, perché è molto reale il rischio della cosiddetta anatra zoppa, cioè quello che si era verificato di fatto col governo Prodi, col governo che siano Prodi. Se si supera il bicameralismo, possiamo tradurre così: la porcata è una porcata, insomma, la porcata attuale. Torno sempre a ripetere e difendo invece quello che fece Calderoli, perché la legge che propose Calderoli fu poi modificata su input dell'allora Presidente della Repubblica, perché volle lui introdurre determinate modifiche che, come disse poi Calderoli, mi hanno fatto fare una porcata, nel senso mi hanno fatto modificare una legge che in un senso che io non ritenevo opportuno, ed è venuto fuori un mezzo pastrocchio. Intanto staremo a vedere come va il prossimo round Pini magistrati. Non c'è nessun round, cioè togliamo contrariamente all'NM che continua contrariamente all'NM che continua a voler mettere un muro sul dialogo, mi sa che stavolta invece è proprio la politica la parte più responsabile, perché continua a dire: sediamoci, parliamone, fate una proposta. Ma se dal di là arriva solo una chiusura e nessun tipo di proposta, e anche all'interno del dibattito che c'è stato, da quello che è emerso, o le indiscrezioni che sono emerse nel dibattito all'interno del CSM, c'è chi ha riconosciuto che il problema esiste perché l'attuale normativa non funziona, quindi una norma per stabilire la responsabilità anche civile dei magistrati deve essere fatta e deve essere modificata. Ma comunque attuale. Staremo a vedere. Io la devo salutare, la ringrazio Gianluca Pini, grazie lei, onorevole della Lega. La vorreste una bella lista di negozianti, commercianti che non emettono lo scontrino, una lista nera? Di questo si sta discutendo al Senato, pare che la norma verrà stralciata, ma la vorreste una bella lista nera di chi evade, di chi non emette lo scontrino? 800 24 0024, tra poco. 24 mattino. Allora, vogliamo discutere anche con voi 800 24 00 24 di una norma che è prevista sul decreto sulle semplificazioni fiscali, di cui si discute al Senato, e che prevede la possibilità di fare una lista nera anti-evasori, una lista nera di commercianti che non emettono gli scontrini fiscali. Allora, voi vorreste questa lista nera? Ci sono dei deputati, dei senatori che hanno fatto un emendamento per cancellare quella che immagino dipingano come una sorta di gogna esagerata. Tra questi c'è anche il senatore Paolo Tancredi del Popolo della Libertà, che saluto. Senatore, buongiorno. Buongiorno a lei. Saluto anche il senatore Luigi Ligotti dell'Italia dei Valori, capogruppo in Commissione Giustizia. Buongiorno, senatore. Buongiorno, Ligotti. Buongiorno. Senta, senatore Tancredi, a lei perché non piace questa norma? La vede come una... Già, l'idea lista nera, forse messa così, effettivamente è un po' dura, però non è un modo per contrastare l'evasione fiscale? Ma sicuramente, però prima di tutto c'è da dire che è un modo che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare anche senza una norma che lo preveda, insomma una legge su cui si metta appunto una lista di proscrizione di alcuni operatori economici, che mi sembra una cosa che un po' va al di là anche del reale intento poi antievasivo. L'Agenzia delle Entrate, la norma è ordinamentale, secondo me non innova nulla poi in realtà. E l'Agenzia delle Entrate è chiaro che può utilizzare una maggiore selettività per quelle imprese che vengono più volte segnalate. Poi quello che non ci piace è il termine segnalato, perché è chiaro che se dobbiamo per legge istituire una lista di contribuenti infedeli, diciamo, o di contribuenti da tenere in maggiore attenzione, è chiaro che insomma dobbiamo andare su violazioni accertate E non contestazioni. Per esempio, certo, qualche ascoltatore ci fa già subito sapere che nelle banche ci sono oppure le liste dei protesti, cioè le liste delle persone che per qualche motivo hanno qualche problema, sia col fisco, hanno comunque, sono già in qualche modo sia nell'Agenzia delle Entrate, come dice, sia nelle banche. Forse è un modo per dire anche il cittadino così potrebbe sapere. Ma lei ha ragione sulla prima parte del ragionamento. È chiaro che esistono modalità operative per selezionare liste particolari di contribuenti a parte dell'Agenzia delle Entrate, già senza una norma del genere, che poi tra l'altro è del tutto generica, non so se avete approfondito anche la lettura. Quindi noi non ne vediamo la necessità e ne individuiamo un po' il rischio, come dire, nel principio di liste, di blacklist, che insomma non sono secondo noi opportune. Sì, messa così il termine non è magari neanche bello. Non lo so se sul termine, senatore Ligotti, almeno sul termine siamo d'accordo che non è molto simpatico mettere una lista nera, però le chiedo invece che ne pensa dell'idea che un cittadino possa sapere, perché poi vorrei capire anche come dovrebbero essere rese note queste liste, cioè io dovrei poter sapere se il panettiere sotto casa mia emette o no lo scontrino? Ma questa è una parte della norma che non appare chiarita nelle modalità operative. Sulla necessità di ricorrere a questo strumento, in altri settori già ci si ricorre, pensa ad esempio in materia di giustizia il certificato dei carichi pendenti o del casellario giudiziario, cioè chi ha pendenze con la giustizia o ha ricevuto delle condanne viene registrato. Nella contrattazione e nella utilizzazione di documenti con la pubblica amministrazione ha il dovere di portare questa documentazione con la visibilità della sua storia giudiziaria, definita o sotto giudizio. Quindi voglio dire, in altri settori già esiste. Quindi anche sotto giudizio, lei lo sottolinea per dire, non è necessario che ci sia un qualcosa di accertato. In materia di giustizia il certificato dei carichi pendenti esiste e viene allegato ai processi, nel senso che il giudice che va a giudicare sa se esiste un carico pendente. Vale per quello che vale, ma è detenuto da sempre un documento necessario per valutare una persona, un soggetto, quindi per le persone già esiste. Ma al di là della modalità, voglio dire, sulla quale appunto non è molto chiaro. Tra l'altro il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera, aveva anche proposto, questo magari è un altro discorso, un bollino blu per i virtuosi invece, che se si vuole è lo stesso modo per premiare, però in modo un po' diverso, cioè l'idea di una lista nera, comunque di dire questi non hanno emesso lo scontrino. Lei, senatore Rigotti, non la vede come una cosa, come un marchio infame, insomma, sul quale... Se ne è cominciato a parlare di blacklist o whitelist a proposito del decreto per la ricostruzione dell'Abruzzo post terremoto. In quell'occasione fu inserito in un decreto del governo la previsione delle blacklist, ossia delle società in bonis. La stessa cosa fu ripetuta a distanza di pochi mesi per il decreto per l'Expo di Milano 2015. Quindi non è estranea al nostro sistema la possibilità di individuare società in bonus o società a rischio. Ora, nella materia di evasione fiscale, essendo un grosso problema per il Paese, un enorme problema, sappiamo i numeri quali sono, anche diciamo, l'enfasi che si assegna a questo tipo di segnalazione è un deterrente. È un deterrente. Su questo vorrei sentire, dopo le informazioni sul traffico, anche qualche ascoltatore, cioè è un deterrente, secondo il senatore Rigotti, far sapere chi evade il fisco, chi non paga lo scontrino, mentre il senatore Tancredi del Popolo della Libertà dice non ci pare un modo giusto per combattere l'evasione fiscale. Ma ripartiamo da qui, vorrei sentire veramente anche i vostri contributi. Ci sono già Cosimo da Torino, Nicola da Latina, Giuseppe da Verona, tra poco. Allora, la possibilità di fare una sorta di lista nera dei commercianti che non emettono lo scontrino, che ne pensate? O anche, se volete, quello che dice il direttore Befera dell'Agenzia delle Entrate, dare un bollino blu per i virtuosi, che è un modo forse un po' più edulcorato di dire la stessa cosa. Giuseppe da Verona, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Niente, due cose. La prima, io non penso di vorrei abbandonare il discorso lista nera perché mi ricorda brutte cose. Sì. La seconda cosa è questa, io sono imprenditore e papà. Imprenditore, vengo segnalato, cioè insegnato, diciamo, la mia partita IVA è regolarmente segnalata in Banca Italia, banche, assicurazione, credito, eccetera. E quindi da questo punto di vista problemi penso che non dovrebbero essere. Poi, come papà, sapere che, non so, il custode della scuola dove mando i miei figli, piuttosto che il mio vicino di casa è un pedofilo, io voglio saperlo. Partiamo da questo concetto. Diciamo, ho capito, che ma come Giuseppe? Come Giuseppe? Cioè vorrebbe pubblicazioni nei comuni piuttosto che liste consultabili online? Quindi lei è per la trasparenza massima, no? Ma un esempio molto semplice. In tutti gli esempi di grandi evasori scoperti recentemente, di gente che hanno 20 anni che non presentava le denunce reddite, eccetera, sui giornali ho visto nel massimo dei casi le iniziali puntate. Magari perché non era ancora finita il procedimento giudiziario, non lo so. Assolutamente, però lei prende un giornale qualunque, io sono di Verona, prendiamo l'Arena, io ogni giorno apro l'Arena, vedo tanto di fotografie, nome e cognomi di gente arrestata, magari marocchini piuttosto africani, arrestati piuttosto altro, con tanto di nome, piuttosto che io, un mio dipendente ha fatto una cosa di questo genere, è arrestato, ha fatto 25 giorni di galera. E assolutamente strana nel caso. Vabbè, insomma, però quindi lei per... No, certo, per lei ci vuole una trasparenza, è giusto che il cittadino sappia. Grazie Giuseppe, vorrei andare a Latina da Nicola, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io rimango un po' esterrefatto dalla discussione in Parlamento di queste cose, perché va bene la trasparenza, però praticamente credo che non serva assolutamente a nulla un tipo di discorso di questo modo qua, tanto più per uno Stato democratico. A me ricorda molto lo Stato comunista, la Stasi, il KGB, queste cose qua, dei cittadini che siano i cittadini. Io credo che ci servano le leggi serie che debellino, perché non conviene l'evasione fiscale. Ma non così, non è questo il metodo, lei dice? Assolutamente no, ripeto, non è questo un metodo da Stato democratico. Poi se lo fanno i dittatori, allora è consentito. Vabbè. Tutto, ma non è questo. No, Monti, governo Monti dittatore, questo perché è del governo questa idea. Io vorrei, senatore Tancredi, basta fare www.evasori.info, è uno dei siti nel quale, guardi, glielo leggo in in diretta 11 ore fa non dichiarati 2 euro a un bar in provincia di Vicenza, un minuto fa non dichiarati 100 euro ai servizi di assistenza sanitaria a Bari, cioè i cittadini segnalano. Ecco, cos'è questo? Lei capisce che insomma è un metodo un po' troppo approssimativo e grossolano per mettere in vergogna un'attività economica o una persona fisica, insomma. Questo me lo deve consentire, sarà suggestivo come sito da consultare, però poi le dico, guardi, in questo decreto semplificazioni fiscali, perché adesso rimanendo sul discorso dell'evasione fiscale, cioè noi abbiamo fatto una serie di norme, giustamente, perché l'evasione fiscale è un cancro che va debellato in tutti i modi in questo paese, ma abbiamo fatto in questi 2 anni, già il governo Berlusconi e poi il governo Monti, una serie di norme molto invasive sugli accertamenti fiscali. E naturalmente queste portano, e non è un peccato dirlo, non bisogna scandalizzarsi, sono norme che rischiano di essere depressive perché deprimono l'attività economica e scoraggiano anche i contribuenti seri che avviano delle attività economiche. Questo non c'è dubbio che è così, perché quando si fa un'azione repressiva è chiaro che si ha maggiore possibilità di prendere chi è fuori dalla legge, ma si scoraggia anche chi opera in però perché in Italia c'è sempre questo rapporto conflittuale col fisco. Adesso io non arrivo a dire che le tasse sono bellissime, come diceva l'ex ministro Padoa-Schioppa, però voglio dire, cioè c'è sempre questa battaglia, no? Ma infatti è proprio questo il discorso, forse, cioè bisogna fare, ma questa è un'azione più nel medio e lungo periodo, più un discorso culturale di sensibilizzazione, di approccio diverso al fisco. Comunque io le voglio dire che in questo decreto semplificazione fiscale ci sono altre norme che alleggeriscono alcune questioni, per esempio il comma 5 e 6 dell'articolo 1, anche qui c'è il discorso di sostanziali blacklist, cioè delle imprese che partecipano agli appalti pubblici e magari per una contestazione del fisco non possono partecipare alla partita. Secondo lei è sbagliato? Cioè ci sono delle norme troppo restrittive? Non è sbagliato, però per esempio questa norma seleziona un po' di più, cioè dice che sono esclusi soltanto quelli che hanno violazioni definitivamente accertate, e cioè che parliamo di debiti e imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. È interessante su questo, senatore Li Gotti, cioè non c'è il rischio di una deriva troppo giustizialista, se vuole, cioè che per anche adesso, dopo che magari c'è stata una cultura troppo lassista su questo, ora al primo errore uno, che ne so, per uno scontrino non emesso, per carità, è un errore, si debba mettere alla gogna o far chiudere un'attività? Ma io rimango un po' sorpreso quando sento dire che il problema che viene definito cancro, io condivido, dell'evasione fiscale necessita di interventi a medio e lungo termine di tipo culturale. Che significa? Facciamo i corsi di educazione civica. Cioè, il problema è che il cittadino sa benissimo che le tasse devono pagare e poi non le paga violando la legge. E dobbiamo acculturarlo. Ricordo che in un paese democratico, quindi non siamo in una dittatura che è come la Svezia, in materia ambientale le ditte che non rispettano la normativa ambientale fisicamente hanno un bollino giallo, proprio viene affisso sulla sede della ditta. Cioè società a rischio perché non rispetta le norme ambientali in un paese democratico. Cioè, voglio dire, ci sono dei fenomeni così invasivi e pericolosi e dannosi per la nostra società che dei rimedi bisogna adottarle, non c'entra niente la democrazia e la libertà. E va bene anche rimedi di garantisco shock, io garantisco la libertà e la democrazia, ma chi sta violando la legge è un minimo di conseguenza la deve pure subire, voglio dire, dispiacerà. Certo, vogliamo essere un paese libero consentendo tutto, ma se vogliamo un po' dare questa diversa cultura ai cittadini, facciamo capire che se si viola la legge non si pagano le tasse, danneggiando l'economia e danneggiando le persone oneste. Insomma, si paga anche duramente. Si viene segnato. Allora, io ringrazio il senatore Luigi Li Gotti, l'ultimo che ha parlato dell'Italia dei Valori, e il senatore Paolo Tancredi del Popolo della Libertà. Ci fermiamo qui. L'appuntamento è domattina alle 7:20.